mostra il Galaxy, ma non è risolvibile. Ah, ma c'è venuto per telegramma, ha fatto qualcosa, è risolvibile, non risolvibile. Ah, sai, pur sempre una base, una stazione base, quella, se il costo non è eccessivo, si potevano ordinare i cambi, però i finali vogliono originali, non copie delle copie delle copie, perché siamo da pochi fatti. Quella radio c'ha i finali tutti originali, il prefinale era di quello cinese che non funzionava, me l'ha detto Burra Alessio, e infatti l'hanno buttato e non funzionando, però gli altri sono Toshiba, perché li ho ordinati io, sono quelli originali che ha quella radio. Secondo me ha fatto male già a darla, quella che la mettono a posto. Vabbè, io le ho fatto già una croce e basta, punto. Non esiste più per me quella radio, ne prendo un'altra e buonanotte, e la prenderò migliore, sicuramente. Sempre, Gianni, ascoltalo, ecco perché ho detto il telefono. Stai sempre allerta, dopo la prendi, video, se la prendi fuori, voglio un video, una M, un FM, un SSB, potenza, tutto, se no te la mangi, video, documentazione, perché siamo belli furbi, ma un bel parome, a meno che non la trovi qua a Sassari, o vai tu a prendertela dove vuoi e la trovi sul posto, allora non l'ho fatto io, allora se no video, te la compro, dimmi quanto è tot, non ho problemi di soldi, mandami il video in AM, in FM, in barra laterale, voglio vedere bene il video col vattimetro, voglio vedere la potenza, voglio vedere il funzionamento della radio, se no ti la mangi, capito? E fretta non ne ho, già ne ho di radio, non è problema, quando capiterà una radio come si deve si prenderà, a cui ne ho abbastanza qua, guarda, ne ho una, due, tre, quattro, cinque, vanno anche bene. Ah no, va bene così, però se hai intenzione di comprarti un Galaxy, ascolta quello che ti ho detto, io ho un amico che fa così, un vero attore lì, quando compra, certo, quanto vuoi, non ho problemi di soldi, mi mandi il video completo del funzionamento della radio banda per banda, se no te la mangi. Non è che ti puoi fidare così, no? In internet sono bene furbi la gente, certa gente ha preso delle inculate paurose. Sta preso da Natalino la radio, il 4:40. E me, cazzo, la mia avu, a te le immagini questo Gianni il caldo. Io non penso di Natalino della Ghessa Radio, però l'ho fatto fare un affare io stesso, io sono sempre mezzo ai piedi di tutti. Quella è nuova, nuova, e quella può dire che è nuova perché è stata revisionata davanti a me quella radio, proprio davanti a me, perciò per la ridura, poi come la usa Natalino, adesso mi domani la porto un 60 che gli ho procurato, nuovo, nuovo, ma numero, ti ho mandato la foto, nuovo, nuovo, nuovo, ed era il mio, e mi sembra Gianni, dottor Rum, che quello che mi ha inviato tu, io l'avevo proprio dato a Valerio, cioè nuovo, perché nuovo, nuovo, c'è la spirale nuova, nuova, nuova, il microfono nuovo, nuovo, luce, luce, mi sembra che l'avevo dato io a Valerio, allora quello mi ha inviato tu. E io l'avevo comprato nuovo di zecca, perché quando ho comprato il 140 me l'aveva detto che era un po' consumato, e conoscendo mi aveva detto ti avviso, te lo dico, l'apparato è nuovo nuovo, ma il microfono è un po' consumato, ti faccio uno sconto, costa 170 euro, nuovo te lo do 150 e te lo mando nuovo, e ho fatto così. Farò bene. No, ma questo invece è quello tuo, perché mi ricordo io che era nuovo nuovo quando gli ero dato, nuovo nuovo rientrato, anche perché tra l'altro non l'ha mai trattato, non l'ha mai usato, e così la radio si è soltanto Alessio, nuova nuova, nuova fiammante, non ha un graffio, bella, bella, bella, bella, bella, nuova anche la radio, anche 920, ho comprato 920 che era il mio lo stesso, dentro la scarpa, ho detto ma lei è mai usata sta radio? Mai. Dovrei comprare da fa così nuova, infatti quando l'ho accesa aveva le stesse memorie che gli ho messo io, memoria HF di banda, infatti l'ho resettata, adesso è senza memoria perché fa la sintonia continua, capito? Quindi è così, va bene, non è che lo porta a mettere, almeno se lo usa. Io non li uso perché ce li ho. Ma quello lì va bene 27, guarda, 60. No, 9,20. Io lui va bene. Vuoi che te lo faccia sentire? Ehi, a fammelo sentire. Aspetta che l'accendo con molto lanterna, aspetta. Ma tanti non ne ha uno in più, cara. Che fare che ve lo faccio dare? Di cosa? Di apparato, ne ha uno in più. Ehi, non so. Se trova. Io sono sempre contento quando comprate le varie buone. Aspetta che commuto cosa c'è lì, l'MD, l'MD 100 della IAESO, che è simile all'MC 60, aspetta che commuto. Lui aveva fatto la corte per l'MC 200 sino a quando gliel'ho dato, adesso io gli faccio la corte a lui. Ma devi imparare a usarlo questo, prima devi imparare a usarlo, uno di questi. A chi inutili che io di Ludoglia e da voi non lo sai trattare. Cacuno, la quinta terra che non riesce a trattarlo, me. Ma lì come una persona? Maccata, maccata. No, Rubembo, tu chi l'ha più da due, uno la quinta terra, perché non riusciva a usarlo. Ma io non lì come si dice? Sei un break, cioè. Certo, ma mi sentite sì o no? Eia, se ti sentiamo qua, va. Vediamo chi è il break, avanti il break. Non intendo io break, tanto. Questo è l'FT 920 con l'MD 100 della IAESH. Già va bene, cara. Non è combattivo come gli altri, ma va bene, la radio è bella. Vabbè, questo è un HF, tra l'altro è anche digitale, quindi non è che puoi pretendere molto, però già si difende bene. Fischiando da 80 watt, 50 watt è importante. Kk. No, va bene. Sì che va bene, sì va bene, va benissimo. E la radio non è, ti dico, da guerra come negli altri apparati, nel 140, nel 430, sono diverse, le radio sono più combattive, diciamo, più da combattimento, ecco. Però è bellissima, la radio è chiara, eccetera. No, vabbè, questa è la banda laterale, FM, basta. AM non è che sia molto molto forte, però la banda laterale, questo è un digitale con DSP molto completo. Cazzo, è più grande di Galaxy, è un bel ragione, un bel grande. Kk. Vabbè, te l'ho fatto sentire, allora passo d'ora col 430, dai. Ma me lo vendi qua? Ma me lo vendi, io non cosa fa vedere un HF. Col Kimbud. No. Non c'ho 6 metri nel Kimbud, questo è completo, questo è 0,50 mega. Già lo so, stavo scherzando. No, tocca lì. E sono trovi anche là. Sono riuscito a recuperarlo scherzando, ridendo. Ma giù dovrà da pigliare tutta la roba mia. Va bene, dai, passo con l'altra radio. Se piccolino sono io. E non sei piccolo. Tu vuoi fare il piccolo, tu sei birbacchione, sì. Cosa? Sono il più piccolino, sono io. Sono Columbati, ieri mi hanno sentito in Puglia, ma comunque già va bene. Perché hai voluto fare lo sbarrone tu. Tu sei furbillo. Ma chi è? Giulio è. Cazzo, la polizia. Ci mi dà giudizio che non è piccolino. No, ma la modulazione non l'avevo riconosciuto. No, qua è quasi 8, 9, una cosa del genere. Ciao Giulio. Ciao Claudio. Columbati, cosa vuoi fare? Più di quello. Però per dire, ieri notte, vabbè, c'era il miracolo della propagazione e mi hanno sentito in Puglia, per cui va bene lo stesso. Ma disaffezionato adesso baracchino. Già va bene così, va bene. No, io stavo provando a 9,20, volevo far sentire Gianni. Però torno sempre con questi. Va bene, va benissimo. Non c'è problema. Va bene, dai, continuate, dai. Allora mi porto 4 bassi qua nel vicinato. Così mi sgranchisco le gambe. Va bene. Faccia pure. Ciao Giulio. Ha un poco di gas, sì, è ovvio, è un forro. Allora voi immaginatevi che fuori ci sono 28 gradi, 27 gradi, io dentro ne ho 22. E io capo, ne ho 32. Senza aria condizionata, solo con la condensazione della casa. No, che cazzo, io non siamo travagliente, cazzo. Se te ne dice cosa, cazzo, vi buoni, cioè, vi buoni. quando vivo a Pagapolletica. Ma non è detto Daniele, non capisco perché si è fermato molto il tuo lavoro. Io volevo scendere a prendere la seconda bombola, è finita, così mi prendo quella di scorta, solo adesso questi giorni sono senza macchina, vediamo se ce la faccio questa settimana oppure la prossima. La sera devo andare a mangiare la pista a un franco binario, a proposito ci avessi rientrato il lavoro. Attento franco binario, non c'è ancora, no, non è rientrato. Dove devi andare con Franco? Là. Ah, usciamo, così facciamo passeggiata, andiamo a mangiare una pizza stasera. Perché mia moglie è ex collega della moglie, quindi è al telefono. Non usciamo, stiamo vedendo, vabbè, io usciamo stasera, vedi via il culo, andiamo là. Ehi, a fare veci. Sul tardi sarei andato a Rubreco. E così esce qua? No, posso andare a mezzo alle 9, di solito vengo loro qua, la mangiamo sempre qua la pizza, lo stiamo, abbiamo fatto un po' di arrostito, però non ho voglia, c'è troppo caldo, matta lì, troppo caldo. Lo so. Lui ancora non ho fatto la tettoia sotto dove c'è il caminetto fuori, e quindi non ce l'ho fatta quest'anno a farla. Ho avuto altre spese, altre priorità più importanti, e quindi non l'ho fatta. Cucinare lì, cazzo, è un cazzo allucinante. Capito? Lì sono belli gli arrostiti di settembre, lì. L'anno scorso mi sono fatto poco. Capito? Adesso quest'anno è andata così, prossimo anno lì ci sarà la pettoia, la veranda coperta col caminetto sotto, e quindi c'è più fresco, capito? Peccato, ma faccia fuoco, bisogna sempre in gas, quando si arrucendo in chi bisogna faccia fuoco. E qui vado a faccia fuga, faccia soli, quindi lì sotto c'è la pettoia alta, grande, fatta, tegole, sono fatta bene, devono fare, devono venire da Basanta a farla, e c'è proprio il caminetto baby cruda con la canna fumaria che sale, che esce fuori dal tetto, dalla pettoia del coso, capito? Però quest'anno non ce l'ho fatta. Ho avuto un mare di cose da fare e non ce l'abbiamo fatta. Il prossimo anno, la prossima estate sarà fatta. Devo farne due, non una parte ma l'altra. Dall'altra parte dove stende mia moglie, in inverno quando piove la roba si bagna, e allora le faccio fare anche lì la tettoia per stendere sotto la coperta, capito? Ricca, piano piano, là. Sì, Natali, io qua quando sono arrivato, guarda, non niente nascondere a nessuno, chi è venuto già l'ha vista, è una legge, però un mare di soldi ho speso per fare modifiche, cose che c'erano da ultimare, un bel, e ancora c'ho la pavimentare di Cambrio dietro, ancora c'ho da fare l'edificio alluminio dietro nel Cambrio, ce n'è un bel, e purtroppo non è che devi stare a svoltare il conto, già ce n'è, ma io voglio fare cose piano piano, insomma mi pare un raio, beh, non faccio manco di una parola. Cazzo, arruinati, no, piano piano, là, non ti somiglia a Brezza. Ti ho trovato a Daniele stamattina, avevo spinto. Ho detto, se muoio Daniele mi fai suonare con l'ambulanza, metti dentro e mi porti. Saluto, bianco per me, ce la risentiamo, ciao. Ma consegnaci a me. Sto quasi per uscire. Gappa, vai già. Ehi, ciao tu. Buona questa greca, là, siamo qua. Se poi ritorni, siamo qua. Gappa. Cazzo, c'è un caldo oggi, non mi volevo andare a farmi un giro, ma c'è troppo caldo, mamma mia, troppo troppo, non fa uscire, cioè, sono uscito con un cane, non potevo mai tornare. Guarda che forse ve l'ho detto, se avete qualche festa da fare, eccetera, eccetera, tra un po' comincio anche col karaoke. Ok, contattatemi, già avete il numero. ciao ciao. Andate avanti. Ciao ciao Antonio, le prossime. Ah, io ho affilate le orecchie. Dai, tu fai il karaoke, io canto. Ma ci sei andato, dai. Chi è andato? Antonio. Via. Hai detto affilate le orecchie, in che senso va? Allora, voi che avete l'orecchio pratico, voglio fare questa cosa istantanea, se no non ne capiamo piedi. Allora, per capire, stessa batteria comprata assieme, usata allo stesso modo, quindi batterie nuove. Superstar 3009, questo è lo ZGM95 da Palmo, messo a metà. Sentitela bene, Claudio, Natalino, Gianni, sentite questo e sentite il KPO. Voglio capire se è lo stesso microfono e cambia la buccia o se ci sono differenze. Quindi mettetevi questa bene a mente. Vai con la... Lasciagli attaccare, vediamo un po'. Così era un bel effetto presente. A me ne vuoi, io muovo di parò. Eia, allora, pigliata con il ricevitore, allora. Quattro dita dal mic, quattro dita dal mic, KPO, batteria carica, comprate assieme, l'altro era l'M95 ZG, questo è il KPO messo a metà, identico come l'M95, quale pompa di più, quale è la timbrica migliore, eccetera, eccetera. Considerazioni a voi, e primo che mando, Claudio. Allora, poco fa stavi usando una 500, adesso stai usando una Mercedes, ti ho detto tutto. Per me l'M93, come ti si chiama, è un paragombo. KPO! Gianni, per te, cacchio, questo mi dà un bel di picchi, cioè sono a quattro dita dal mic come l'altro e a metà come l'altro, ma vedo picchi allucinanti, allucinanti sullo smitter. KPO è il migliore, dai. Senza ombra di dubbio, Marco, più forte, più potente, eccetera. Ma mi... Anche l'effetto presenza, cioè, è completamente diversa. Ti sto dicendo, dalla 500 alla Mercedes, per non dire dalla 500 alla Ferrari, ti ho detto tutto. Minchia, allora non è lo stesso microfono, ma anche le vicissitudini sembrano quelle, ma ci sembra quasi per una batteria che sia la stessa cosa, invece no. A quattro dita, pensa se lo metto a manetta, è a metà adesso. Ok, e la timbrica dell'altro com'è? Più metallica, meno fedele, più robotica, più barattolata, riuscite a dare qualche indicazione di più? Ti sto dicendo, io ti sto ascoltando col K, col 430, K140, ho commutato l'effettino per 20 in DSP, ok, in DSP, da favola, l'altro lo puoi anche mettere dentro il cassetto. Quindi KPO batte ZG 10-0, bene, regalo ZCM95, chi lo vuole se lo venga a prendere. No, dammi il KPO che mi piace quello a me. 101-0, non 10-0, 101-0. Marco, quanto l'hai pagato il KPO? Oh, 35 euro più la spedizione, 6 euro, 7 euro, non mi ricordo, però ho preso anche altra roba. Ecco perché tutti sui forum inglesi dicevano KPO, lo metti su tutti gli apparecchi, su, anche su quello che a Giulio dice, diventa favolosa la modulazione rispetto al mic di serie. Questo è il 3009 col trimmer della modulazione aperto e vedo dei picchi favolosi. Guarda, adesso ve lo metto a manetta, ve lo metto a manetta, sempre quattro dita dal mic, guarda, mi allontano tutto il braccio, tutto il braccio allontanato, vedo dei picchi strepitosi, vai. Oh, allucinante, 30 euro di micro, ma tu non te ne ricordo come stai uscendo qua. No, in DSP sembri qua davanti a me, modulazione strepitosa, bellissima. E vuol dire che i forum una volta tanto avevano ragione, forum inglesi, forum polacchi, tutti questo KPO, KPO modello 532, vi ho mandato la foto peraltro, dai. Quindi tenetelo conto perché è un'ottima alternativa agli ZG che a quanto pare a quelli da Palmo, e poi l'MB più 5 va sempre bene, il più 4 va sempre bene, però mi dispiace, ma quelli da Palmo stanno perdendo terreno. Marco, ancora più forte di quella di Gianni, strepitosa, veramente molto molto bella, veramente bella. Gianni, prenditelo quel microfono e mettilo sul 3009. Ehi, per il 3009 mi serve, se Marco si fa qualche altra combinazione me lo dice, gli do i soldi, non c'è problema. Il sito è SM Technology, se no lo dovete ordinare dall'Inghilterra, però c'è il rischio che paghiate la dogana. Ok, adesso l'ho rimesso a metà perché sennò è veramente esagerato. va bene, quindi tenetelo conto. Guarda, lo ZG però tutti mi hanno detto, ma a metà non pompa, non amplifica, non spinge, e infatti era vero, era vero. Adesso è perfetta la modulazione proprio, che è a metà. Allora, questo Mike lo stanno consigliando, mi dice mettetelo sul CRT 6009, sul 7009, sul 9009, tutti i baracchini President, dice ha una resa eccezionale e poi spinge abbastanza rispetto all'IZG da palmo. Va bene, buono sapersi. Riprendete pure, vai Natalino. Sì, è buono come microfono, te l'ho detto che è perfetta adesso la radio. Si sente ancora l'amplificazione anche a metà. Poi non so la batteria quanto duri, fa sì che spinga di più ma consumi molto di più, ma non è detto, non è detto. Ok, riprendete voi e vado di nuovo a bene. Dopo mi dici come si chiama il microfono e non me lo ricordo più. Ma Gianni, non ti avevo mandato il link del negozio che lo vendo. Scusate, devo bere. Ehi, allora, ce l'ho, il negozio ce l'ho. Ce l'ho in diretta, lo faccio arrivare. Poi l'aspetto, vabbè, la forma può piacere o non piacere, però serve avere lo ZG, è persino più brutto se c'ha quelle serigrafie giallo, vomito. Quello ce l'ha blu. Sì, queste sono, guarda, sono verde acqua su questo mic, verde acqua, però questo è più tondeggiante, sembra della Peg Perego, però è scuro, è più sobrio d'aspetto, lo ZG è più spigoloso, ha stufato, mi ha rotto le balle lo ZG da palmo. Va bene, riprendete, vado bene, ciao. Sì Gianni, guarda che c'hai la foto e anche il link. Ok, sto andando a cercarlo, dai. Comunque c'è difficoltà, 532 KPO 532 NM Napoli Milano 532. Io te la poggio. E io te la spingo. E come mai stai uscendo così bene? Perché c'è 140, ecco perché. Tu sì che sei furbillo. Allora, sono furbillo sì. La prima volta che ti sento chiaro, dopo averti dato quell'apparato là, sto facendo anche chiaro con quello lì. Sì, capo, mi tocca il cavo però. Cavo, alimentatore è dovuto cambiare perché c'avevo dietro l'altro da 40 ampere. Lo fischiava ieri, vabbè, ma non penso che, che sia l'alimentatore che c'ho dietro, mi deve, quello devo spostarlo più giù in fondo, mettere i cavetti più grossi perché sono sceso da a cambiarmi i cavetti, prima c'avevo i cavetti fini, adesso c'ho quelli grossi agganciati, quindi già va bene, già zunfia. E in maniera che zunfia? E non fruscia più, almeno. Mettiti anche quello di massa il cavetto, Antonè. No, se aggancio quello di massa si abbassa la modulazione, non capisco perché, devo vedere un po', capito? Adesso prima mi sistemo l'alimentatore, quello grande, quello modello vecchio, capito? Dopodiché vediamo qual è il problema, sarà stata una cazzata, quindi... anche perché fischia non fischia, se io non metto le, cioè non fischia per niente, prima fischiava, adesso non fischia più il microfono da tavola. E il microfono di tavola c'hai pure tu? E l'MB+5 c'ho. E io c'ho l'MB+4, vedi? E quello c'ho anch'io nel 2009, poi c'ho il Salerno nel Connex 4000 e basta. La canna da pesca ce l'ho smontata, nel terrazzino ci ho messo la multibanda a verticale adesso. Oggi l'ho provata, poi sembra che stia funzionando. Già cosa cazzo ci aveva prima, cosa cazzo gli aveva preso. Già ho 3 anni, mai usato. Oggi l'ho attaccata e sembra che funzioni. tutto bene, ma adesso adesso prima lo lascio giù e basta. Io ti faccio, piglio due staffe, faccio due furi e la piazzo vicino sul gas, così almeno quando prende il fulmine, cazzo, almeno si incendiano le tubature. A me è molto pompa. Claro. Sei con quel microfono a terna? Sì, è il microfono normale. Ho fatto un 10 di notte con Portogallo. Ero le 11 qualche cosa. Ha fatto 10 ho fatto. Cazzo, ho detto, buh, a me. Va bene, stai scendo magnificamente bene. Già lo vedo, mi sto scendo bene. Anche in voce, se provo esco adesso. Adesso sta andando bene, non te ne l'ho, ce l'ho appoggiata nel paletto, nel terrazzino, al centro del terrazzino, adesso momentaneamente. Cazzo, c'era un vento sopra il tetto, adesso che hanno tagliato quei pini, ragazzi. Sembra diventata la Santa Teresa di Calcutta qua. Lì che fa il posto. Un casino. Chi c'è rimasto qua che mi sono dovuto allontanare? Io ci sono rimasto. Ah, per il bella c'è il cocoma. Anche tu lo sai. Sì, cocoma. Sempre col cacciavite nel braccio. E ma te ti sei rotta la pedivella? Lo so, mi sono rotta la pedivella e adesso sono l'acceleratore. E tu non hai cavalletto, quindi la devi mettere attaccata al nudo. Quindi ho qua a fare, adesso sono ancora la MDP5. Sugar, tanto mai, ma hai fatto il gioco, Sugar. Ma basta, quanto ce l'hai? Basta, cappelletto, quello che ti ho detto ieri. 1, 2, 3, 4, sono distante un metro dal microfono, è naturalmente. Abbassalo un po' che trovo. Come lavora il MP5? Oh yeah! Antonio, una bomba magica, 9:30, segnalone radio Super 5, con l'MP5. Ha visto se funziona? Quello è un bel regalo, tienitelo conto che quello lì l'ha fatto Fabrizio proprio per quella radio. Ehi, lo stendo conto, a voi, vi lascio questo con il microfono, vi lascio il saletto, è collegato al connessore 2000 e l'MP4 al 2009. Adesso, domani, dopo pranzo, lo metto il 2009 vicino a come si chiama e così me lo sistemo, che ha problemi FM, almeno vi posso sistemare l'apparato. E allora era un casino prima, non si riusciva a capire una fanculo, toccavi il deviatore, sembrava non funzionasse, eccetera, eccetera, adesso ormai me lo sistemo. C'è 20 anni quel barattino, è un peccato lasciarlo così. Alessio, buonasera, come ti sta arrivando in quella zona con Kingwood? Dammi un controllo che è più giusto quello lì. Chiara gara. 9:20 sei qua. Quanto? 9:20 e 5. Io sento questo elicottero sotto fuoco. Era vento, ma delle che c'è in fondo dove c'è il premio 4000. La posso anche eliminare, basta che abbasso così, guarda, adesso la vento non si sente quasi più. E così va meglio anche la modulazione, era troppo alta quella di poco fa. Ehi Antonio, lasciala però più bassa perché spingi un bel quel microfono, te l'ho detto. Spingi un bel, va bene, sta scendo una bomba, 9:30 alle 10:05, sì. Ehi, già lo so, se metto le metatone in terra, sparisce tutto quel coso. Quando va vento va che c'è sotto il connesso 4000, capito? Se io uso l'altro limitatore, quello dove c'è la stazione saldante, che quei tappeti che sono in quella limitatore che ho costruito così, quella voce, che erano fini, capito? Quello dove c'è le mollette. Io ho comprato i tappeti nuovi, adesso domani li rimetto e così lo provo con quell'alimentatore lì. E siccome è chiuso, che l'hai visto che è chiuso dentro all'interno alimentatore, quindi non doveva fare nessun casino, anzi rimane più protetto. No, stiamo andando bene, benissimo. Funziona bene, è molto difficile per quello lì prendere l'alimentazione diretta dalla radio, capito? Non l'ho fatto io, ma l'ho fatto Fabrizio, diretto, alimentazione diretta, come sole diretto, tutto diretto, come nei mesi 60 quello. Solo che pompa un bel, perché c'hai il doppio processore, più amplificazione regolabile, quindi pompa un bel, tienilo così basso, se no si sente troppo. Casino, vai già. Ehi, a poco fa c'è ti manca la ventola, era proprio il primo piano. E vabbè, comunque già va bene, dai. Già esce bene. E adesso mi già un po' di tempo che adesso lo sento che esce bene. Anche col Connex esce bene. Però anche col gas ci va bene. C'era un periodo però che non lo sentivo bene, boh, non so perché, forse usavo altri apparecchi. Cosa hai messo? Di nuovo l'ecco già? No? Cosa? Non avrai cambiato radio? No, ma la stessa, non ho toccato niente, forse l'ho urtato con la, l'ho urtato con un dito, guarda adesso. Adesso sì. Non a spostare, se no diventa, te l'ho già detto, diventa troppo metallo, già rimbombante. Perché con un dito magari ho toccato il cursore, senza accorgermi, perché avevo premuto la portante, ho toccato il cursore con un dito senza volerlo. Già tranquilla, mi sono ascoltato anche alle cuffie, dai, già va bene, è bella potenza. No, va bene, così va bene, la Duca, va bene. No, non te lo lascio benissimo, sono contento che va bene. Tanto io col microfono lo usavo e tutto è stato di Duca. E va bene, tanto per quella radio lì. Ho fatto apposta per quella radio lì. Avanti, Natalino. E oia! Camion non ne prendi! Mia, senti, che mi sovramuto, è inutile che parlo perché c'è lì che parla e beh, ed è più forte di me. Cioè, ma non puoi aver fatto in giro che lo stai sovramodulando? Io sto sgridando il mio cane che mi sta buttando il mangiare in terra. Beh, tu lo devi raccogliere, scusa, anche il mio lo butta per terra, quando lo butta io lo raccolgo. Io sono la serva del cane! Intesa hai? E Natalì, ti sei deciso a mettere questa antenna? E io già sono deciso, sono gli altri che non sono decisi ancora. Chi sarebbero gli altri? L'amico mio che mi deve piazzare le staffe, perché non la voglio piazzare più come prima. Adesso mi deve scendere da sola e salire da sola. Ci devi mettere le staffe, come le metti? Le staffe lì? Ce le ho già qua. Quelle sono delle staffe belle amprose. Capito? Io sono passato col 140 anch'io, Antonio, lo farò col 430, mi sentite? Sì? E io? A voglia. Ecco, io che rompo 700 meglio qua, ma si è uguale, un bel forte ti è uscendo. Gianni, prova, vedi se è segnato uguale al 430. Io? A me hai detto? Ehi, prova, chi parla? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì, è uguale, sono perfetti. Va bene, arrivate tutti magnificamente bene. E siamo contenti. Ci senti bene, KK. Antonio, rientrate, Antonio, ci sei? No, Antonio, che sei uscito a consegnare, sicuramente. Consegna. A chi tocca il Michelino? Ma è il microfono di Marco Condor, canto bomba. Bomba. No, me lo comprare Giulio Barugalaxi, o per il DAC. Coordinami due. Lo prendi anche a me, chiedo i soldi. Io non ho computer, no. E con Marco facciamo ordinare due. Ma di cosa? I microfoni di su KTO, cos'è? Ghiscio. Tanto c'è la connessione del 3009 per il Galaxy, quindi è uguale la connessione. Ah, lo mettono con tre tipi di connessione, qua. C'è a 6 pin, a 5 pin e a 4 pin. E il Galaxy ha 4 pin, però la connessione è uguale, insomma ricordi, usavo il microfono Galaxy, usavo sull'Airbag, se uguale. Sì, confermo, Cobra, Galaxy, Superstar, stessa connessione, però lo stesso prezzo, se volete ve la fa anche per il Midland. No, Milano ne ho io. Ordinare due, ci vediamo, ti do i soldini, ti faccio un bonifico. Fate, vedete, e poi scappo con i soldi. Scappa col malloppo, veniamo in Grecia a cercare. Scappa alle Maldive, e manco forse 1 milione di euro. Certo, ma 35 euro, ma... mangiano tutti, i soldi valgono di più a chi cazzo, valgono di più nel senso che ci tieni di più perché valgono meno quando vai a comprare. Ah, così è. Allora, non ne comparai, chico. 100 euro, vai a fare la spesa, 60 euro di batte di cuscino. Io faccio bene io, investire diversamente. Cosa? Ho fatto bene io a fare un investimento diverso. Ah, sì, beh, certo. Non stavo collegato. Sì, ho capito. Hai fatto bene sì. Tanto, quello che l'investimento che hai fatto tu aumenta sempre. Assume sempre valuta. Mentre invece quando vai a spendere per altre cose, moto, macchine, questo e quell'altro, le come ti esci dalla fabbrica, la concessionaria valgono già di meno. Già, io ho speso 2 citi e c'è la macchina nuova, verniciata, tutta nuova, gomme nuove, tutta, capite? La macchina va bene, me la tengo, non spendo soldi. Io, mia figlia ce l'ha comprata nuova. Quindi non c'è problema. No, no, io sto parlando dell'investimento alla casa. Quello è l'investimento in mura, ma io ho fatto un investimento in quattrini. E adesso ho fatto bene a farlo. A me non mi fruttano invece di stare a buttarli via in macchine, in moto, in biciclette. Ma è fatto. Bisogna fare anche le formiche ogni tanto. Anche io ho fatto l'investimento. E ho anche vinto in borsa, quindi non c'è problema. Anch'io, ma non mi fido più, l'ho fatto una volta, ma basta adesso. No, mio, guarda, così non posso parlare qua, no? Siamo una vedente di spiccioli già, lascia perdere, te lo spiego diversamente. No, che è un botto grosso, no? E poi noi qua, non è in Italia. Beh, cambiamo discorso. Natalia, riprende, fai girare un attimino, ma ha chiamato mia figlia. E già, riprendi già. E contieni? Con gli investimenti bisogna stare molto attenti, specialmente quando è fuori. Se bisogna tutti i duri, bisogna stare molto attenti. Però io ho fatto qua l'investimento, ne ho vinto abbastanza. Ho comprato quelle azioni Telecom quando c'era, ne abbiamo comprato 20. Abbiamo vinto un bel po' di soldi. E a fortuna quello. Natali, devi avere il coraggio quando sta aumentando di ritirarvi, perché se tu aspetti che aumenti ancora di più, magari poi cade di colpo e si futti e prendi sacco e infatti, devi ritirarti quando stai guadagnando. Chi è tuo profitto perde tutto, rischia di perdere. Si è fatto ricco, ci ha fatto 2 case, ci ha fatto la casa al mare, ci ha fatto la casa in campagna, e se ha vinto un bel. Mimi, vai da ridomi. Cosa vuoi? Hai preso il premio! Ma forse vuole andare giù. A fare la pipì vuoi andare. No, facci tu, perché io mandalo che io lo guardo dalla fine. Aspetta un attimo già. Vuole scendere la pipì. Vuole scendere? Picchialo con la pompa. E tanto ti avvisa, quando deve scendere ti avvisa. Paura. Ho capito. Non mi ricompare giù più di questo microfono, se abbi da lui. Non vi mancheranno i microfoni. Questo è un Intec, Marchino Intec, il microfono è lo stesso. Qua mi sembra che pompi di me. Mi sa anche a me. Vabbè, Intec di quelli omologati, senza Smither, proprio quelli Intec. Poi Intec non è che abbia fatto mai omologati performanti, sì. Va bene. A fianco c'era il Dinsi che costa di meno e pompa di una cosa amara, come l'M300 pompa. Quale? Il Dinsi. Ah, il Dinsi, ma lo fanno ancora il Dinsi? Io l'ho avuto tanti anni fa da Palmo, era arancione e nero, con la spia sempre frontale in alto. No, questo è tutto nero. E a fianco a quello che mi hai detto tu, c'era quello lì, a fianco cialdesi. No, io non li ho guardati, non li ho guardati. Credo che abbia anche i soliti, quelli che escono a cutti, pure americani, fa static. Però io, mi dispiace, io uno ne ho provato di static, già lo sai. È ancora andato, sta. Io l'ho cambiato il filo, l'ho cambiato tutte le cose che dovevo farli, ne ho fatto, mi sono appintato e adesso l'ho messo su Ruiz. Sì, alla fine 60-70 euro di microfono quasi, e questi vanno molto meglio. Marco, anche io ero rimasto deluso dal, come si chiama, dal Diavolo Rosso, dal Red Devil. Sono rimasto deluso, diceva che era antisoffio, l'ho preso per andare in macchina di modo che non si sentiva il vento, invece dice, lo sentivano lo stesso. Poi dice che era, aveva troppi acuti, pochi bassi, tutto acuti. E sono stato un po', infatti me l'avevo rivelluto perché non mi entusiasmava. Eia, io invece sto pensando una cosa, allora... Io questo non l'ho provato in macchina, io spero che in macchina non fischi, perché se è poco schermato per la RF, così com'era il DM1000, allora il DM1000 in macchina anche con 4 watt, anche con 1 watt, se aveva dei rientri spaventosi, fischiava, non lo potevi usare in macchina, spero che questo sia fatto meglio, se no in macchina non si può usare, è un peccato sarebbe. Ma io in macchina lo usavo il DM1000, tranquillamente Marco, lo mettevo anche a manettone, lo mettevo sul sedile del passeggero e premevo la portata così per non farmi vedere la polizia e mi sentivano bene. Io avevo la base magnetica all'epoca, tu forse avevi ancora il centrotetto già, magari la massa era migliore. Sì, centrotetto avevo già. Sì, e ne ho ancora uno di M1000, lo uso con la base Intec. Va bene, riprendete voi, io sono a spalle verso il baracchino, sono coricato sul divano, se c'è il gatto che vuole mangiare, dai, mi occupo di lui, se no mi mette in croce. Quanti ne hai adesso? Due femmine. Ma sterilizzate? Sì, per sicurezza, se no tornano incinta e poi un casino. Ah, perché le fai uscire? No, vabbè, in strada no, però questa aveva il vizio di farsi muretto il giro di tutti i palazzi. E se trovava il maschietto facevano bunga bunga e poi venivano i gattini, capito già? Ehi, non lo dico a me. Io allora mi sono nati i pappagalli, adesso ho fatto altre 6 uova. Mi sono nati i pappagalli, ne ho 4 piccoli già da dare e ci sono altre 6 uova. Non ho fatto il tempo a togliere il nido che ha fatto altre 6 uova. E come mai dicono che in cattività certi uccelli non riescono a riprodursi? Ma sono tutte balle. Ma non si tratta, a me, guarda, il natalino lo sa, a me tutti gli uccelli che ho avuto, le cove me le hanno fatte sempre. C'ho la mano. E magari li tratti bene tu, chissà altri come li trattano gli uccelli. O li sbattono in stanzini, li lasciano soli, coperti, che ne sai? E poi ti sei trovato 2 maschi già, ma l'avevi gelato l'altro? No, non l'ho dato, ce l'ho ancora e non lo do più perché lo sta domesticando, si sta domesticando bene, mi sale già sul dito, sulla testa, era molto selvatico quando me l'hanno portato, adesso si sta domesticando bene, se lo do, lo do a un prezzo più alto, non lo do a 300 euro, manco per le scatole, perché lo sto domesticando, quindi diventa mansueto, poi tranquillo, vabbè che mansueti del tutto non diventano mai, perché un po' di selvatico lo tengono sempre, però fa delle cose, gioca con me, con la pallina, eccetera, ti tiro la pallina e lui la prende con le zampe, capito? E sta cominciando a venirmi sulle mani, prima proprio non si faceva avvicinare, manco la gabbia si sbatteva da una parte all'altra. E perché temono? Hanno paura delle mani. E io ce l'avevo uno, a me mi conosceva, come mi avvicinavo alla gabbia senza manco toccarla, apriva le ali che mi voleva morsicare, ma te l'immagini, perché non voleva pigliarlo. E io ho un segno di minaccia quella quando aprono le ali così, è un segno di minaccia. E poi ti fanno vedere il becco. Se non provi, ma quelli che c'è Elena, non sono, le calossite non fanno tanto male. male, ma se ti becca lui, vedi le stelle, a me mi esce anche il sangue. E a me quando mi piccava chi dugna piccurità da mi cudia, l'avevo regalato a Franco, bello quel pappagallo era, quanto era bello. Ma poi si conosceva, perché a me come mi vedeva mi conosceva subito. A briarargli mi pulia musica, perché io lo prendevo sempre e lui non voleva a prenderlo, capito? Era selvatico proprio, era nato nella gabbia mia, e l'avevo regalato a Franco California quel pappagallo. Azzurro era bello. E coccolita, dai. Tu sai che le coccolite, se ti ci metti, parlano anche. Se ti ci metti, ho sentito coccolite su internet che parlano. Oh già, che tipo di pappagallo è quello che c'ho dentro l'armadio? Era di mio suocero. Quello che c'aveva? C'è il fumo acceso. Quello che c'aveva mio suocero, ce l'ho dentro l'armadio. Che tipo di pappagallo è? Quello per pisciare. Pappagallus vulgaris. Pappagallo uccellibus. Pappagallo per punta di cornicione. Ma Marco, sei andato a vedere i luri come so? Marco Accordo. Stavo cambiando radio, un attimino, radio, tra virgolette, baracchino. Fate girare, dai, riprendete voi un attimino, che mi occupo della iatta. Dopo vai a vedere l'uri al combaleno come sono. No, li ho già visti, sono meravigliosi i colori, meravigliosi. Certo di certo, costano perché costano 300 euro l'uno. Quando non sono ancora domesticati, poi se da domestici salgono anche di 100 euro, capito? Ho già per info, questo è sul president omologato. Però c'è una cosa che non capisco qua, il microfono ha due impostazioni in menu, dinamico e electret, non ho capito con quale renda meglio. Dinamico è normale, devi mettere l'altro per vedere se amplifica bene. Non so perché, c'è la spiegazione sul libretto ma non è chiara. Questo è electret, però credo che vada messa quando metti unicamente sul mic originale, mentre se metti dei mic che non vengono alimentati dalla radio, perché questo viene alimentato dalla batteria, forse devo mettere dinamico. Se volete faccio la prova all'istante, così abbiamo finito di fare prove. Sempre quattro dita da mic e sempre a metà, Ehi, ma tu pensavo che se si parlava del microfono, invece tu stai parlando delle regolazioni del baracchino. Ehi, allora, posizione dinamico, stessa distanza dal mic, è cambiato? No, io non vedo nessun cambiamento, tu. No, allora è equivalente. Adesso, quindi è quelle, ti spiego già. Allora, metti electret quando c'ha il microfono originale che c'ha la capsula piezo ed è alimentata alla radio. Quando metti dinamico, tipo il dinamico vuol dire quelli a capsula 500 ohm, metti posizione dinamico sulla radio e basta. Quando metti l'amplificato non cambia. Ho capito. Natale. Ma adesso Drumidus. Sono qua, ti bevo un ba. In agguato, pompucu. In agguanto. Alla chiamata Simone, sono andato in canale un attimino per sfruttargli WhatsApp, perché c'è andato quanto pieno. Aio, invece lo mettiamo all'asta, che sono a Parigi. E quale? Quello tuo. Mi hai detto che sono altri in due a me. Hai capito? E stamattina, non io. In due mi hanno chiamato, se lo stavo volando, ho detto di no. Te l'ho comprato perché mi serve per questa cosa qua e te me lo vendo. Ho detto no, rimane qua, non si muove. Ti ho detto io, Antonio. Ma infatti io stavo scherzando, non te l'avevo detto. Già lo so. Ma no, ti ho fatto due stamattina. E guarda, no, lo sto dando, ho detto. L'ho comprato, ho detto, perché venivo di parlare degli apparecchi, sono lì, gli ho detto, e ho fatto stati montare in parole, e ci vuole bello, lo sarei fatto, gli ho detto. Ho detto, prova su internet, gli ho detto, già qualcuno ha detto, già lo trovi, gli ho detto. Quindi non c'è nessun problema. Ecco, guardi su internet, eccetera, eccetera. E va bene, tutto lì. No, questo non si muove la cava, manco le balle. Ma regala, Romice, lo devi vendere, mi raccomando. Fatti il furbo, Antonello. Almeno recuperati i soldi che l'hai pagato. E a te non ti regala niente nessuno. No, non si muoverà qui, non lo vedo, fra, te lo sto dicendo, qua a me. Altri 15 anni, se non mi ammazza il Covid, rimane qua, non ti preoccupare. Come se 80 rimane anche fermo, anche questo. Se è proprio regolare qualcosa, mi c'ho il DTS-40 che adesso funziona bene, grazie a Dio, quel malattino per la macchina. Io ho messo il microfono della Intec e funziona benissimo adesso. E lo stesso identico microfono a quello originale. Però c'è una capsula piezoelettrica e funziona magnificamente bene. L'unica cosa che do è quello, se ne può darlo, 50 euro con quanto l'ho pagato io. Né di più né di meno. Caro vuoi così, caro nuovo se lo se l'abbia il culo. Rimane più bustato, non è che mica problemi, ha voglia, malattie di già ne ho. C'ho il 2009 di Giovanna e il Codex 4000, anzi Giovanna vuole il Codex 4000 e il 2009 me lo vuole lasciare a me, quindi figurati tu adesso appena c'ho incasso un po' di soldi, spendo 60 metri e 10-58, mi piazza una bella bomba anche a Giovanna e esce con quella. Almeno parla anche lì la casa sua. Sì, confermo, devi abbassarlo appena appena, ma sei troppo alto. Io te l'ho già detto, puoi fare quello che vuoi. Nel caso te lo vuoi vendere, poi se non serve eccetera, lo riprendo io, ti do quello che l'hai pagato. Senza speculare niente, me lo porto nuovamente qua, capito? Quella è una signora radio. Quindi se te l'hanno già chiesta, io mi immagino già chi è che ti sta corteggiando. Perciò stai attento. Furbo. No, è stato fatto tanti bottoni per averlo, già lo sai, c'è anche bisticciato per avere un apparecchio del genere, hai capito? Se non l'avevo avuto già anche a 6-7 mesi prima, perché lo stavo pigliando da internet, stavo dando i contanti, ti ho anche spiegato, e poi mi sono trovato già pestato, capito? Quindi, no, rimane qua l'apparecchio, non si muove, non me ne frega niente. Rimane qua 15 anni e l'uso come se tanto tale uguale, basta prendere bubi, ho venduto il salto becco, perché intanto non me ne facevo niente, funzionava bene, grazie a Dio, e mi ha dato un sacco di soddisfazione, anche se mi ha fatto soffrire per impararlo, non me ne frega niente, l'importante è che ci sia riuscito. E sono contento di averlo dato a chi lo ha, almeno ne farà buon uso. Tutto lì. Fa la fase tutto. Ciao Massimiliano. Poi ciao Ale. Ciao Massimiliano. No, io te lo sto dicendo perché è già la seconda volta che ti do una radio. Era accertato, era il mio, te l'ho dato e ti ha durato un sacco di anni. Quello era il mio e sei sicuro che è a posto. No. Non è una radio che trovi su internet così come quella, nuova così, già l'hai vista, io te l'avevo letto, tu non ci credevi, nuova, quindi. Ciao Massimino Bulldozer. Ciao, ma cosa nuova, te l'ha mangiata, una sirene. Te l'ho vista su internet stamattina, ho messo la foto, Alessio, tutta mangiata da Zurigo, una sirene. Ciao Massimiliano. Ma è un gioco, cazzo. Ciao, lo so, non l'ho fatto ascolto, la verità, sono entrato a gamba tesa. Buonasera, KK, e adesso Alessio è contento che c'ha il giochetto. Alessio è contento che ha una radio seria, non è mangiata da nessuno, è una radio a posto. State attenti su internet, l'altro giorno mi ha telefonato un amico di una sceneggiatura, gli dirò chi è, non qua, che è fin con la rete appigliata, ho ordinato un 430 nuovo, già la conosci la mia, no? La conosci perché la conosci molto bene, chi c'è ancora più nuova, 3.000 durata, 3 giorni, si è spenta non acceso più. Vabbè, quelle sono cose della vita, qua. Gli alusiai, sono radio che hanno 30 anni e non possiamo neanche pretendere di trovarle in buone condizioni, capito? Nel senso che c'è chi la tratta bene e c'è chi la tratta male, quindi poi si rompono le radio, si rompono le macchine, si rompe tutto. Questo sicuramente ha venduto perché c'era già un difetto, se no non l'avrebbe venduto. Faccio un'idea, io capisco, l'ha fatto a me, l'ho portata dal medico, una spinettina ed è tornata alla grande, capito? Però cazzo, aspetta un attimo. Andavo, ormai più o meno diciamo questi che ci sono qua sono abbastanza nuovi, no? Gava, avanti, doppio rutto. Ma comunque non conviene a privati prendere, conviene direttamente prendere dall'elettronica, la tecnocomunicazioni. Io l'avevo preso una tecnocomunicazione, era perfetta, andava benissimo, non c'aveva una bizzica, perché lui faceva proprio il Kenwood, gli ha dato una controllata prima di darlo, l'aveva ritirato alla fiera e avevano comprato l'apparecchio nuovo e l'ha ritirato quello. Mi ha chiamato subito perché io gliel'avevo detto se rientrava qualche apparecchio come si deve di farlo sapere, sempre Kenwood 480, 140, 440 eccetera, e mi ha chiamato e me l'ha detto, gli ho detto mandamelo, lui mi ha detto qua c'ho il microfono MC60, però conoscendoti so che non lo vuoi perché è un po' consumato, non graffiato, ma consumato come l'ha usato. L'apparato è nuovo, comunque prima di mandartelo te lo controllo. L'ha controllato, mi ha mandato il messaggio, l'ho controllato ed è perfetto in tutto e per tutto. Ho detto mandami l'apparato, l'MC60 me lo dai nuovo, me lo compro nuovo. E mi fai uno sconto, mi ha fatto 20 euro di sconto e mi ha mandato quello nuovo. Però dal negozio ormai non possono essere queste radio nuove perché hanno 30 anni, oltre che non le fanno più nuove queste le radio. No, te l'ho detto, l'ha ritirata per venderne una nuova, ha ritirato quella e ha venduto quella nuova, capito? Però quelle radio lì si sa che sono, che a furia di usare c'hanno tutti i componenti che sono usurati, è normale che prima o poi ti basti qualche cosa, perché anche il garage è così, c'è poco da fare, io ce l'avevo tanti anni quel garage, non mi aveva mai dato problemi, però purtroppo poi alla fine ha ceduto anche lui. Cilia, scusate, il telefono non ho chiuso. Stavo dicendo, ma cioè, capisci che si può anche una cazzatina, ma l'ha aperto, guarda, mi faccio mandare le foto e te le mando, c'ha tutti i fili, aveva tutti i fili con un altro isolante. Cosa è successo? Nello spostamento, come è arrivata in altro sole, come lui ha iniziato a parlare in altro sole, la radio ha scaldato, poi non entrava tutto al vento, l'ha scaldato ancora di più, in altro solante si è sciolto praticamente, hanno toccato i fili e è andato in corto la radio, da buttare via. Che paura. Cioè, veramente da truffatori, gatto, non ci voglio pensare. 300 euro buttate, ma tu sono incazzato nero, io ti incazzo di, ma nulla mi ha detto, no, e allora peggio per te, io ce l'avevo una radio buona, tu me lo dicevi, io te l'avrei fatto avere, invece vai con quale già da internet e mi dai culo. E ti ricordi quel 140 che avevo comprato dalla Sicilia, là? Te la metto? Sì, che ero riuscito a metterlo a posto io. Sì, quello lì. Te la metti, ci andare via, non va via macchina, non va via nulla, tutti i picchi negativi, l'avevo messo sotto io, 140 già, riesco a fare quelle cosettine, tutti le rete variabili tutte spostate, avevo aperto la mia, le avevo fatte tutte uguali e la radio era perfetta, anzi, era una cannonata. Gava, vabbè, vedi, quando compri così da fuori non sai mai da chi compri, vabbè. Ma Carlo non vi ha chiesto il mio numero, no? Sì, ma ci vediamo, ci metti in carta, adesso glielo mando, me lo scrivo in un pezzo di carta e glielo mando. Capito, se no ti domando io il suo e lo chiami tu, non lo so, vedi tu. No, dalle il mio, mi chiama lui, quando vuole, ha tempo di a Lusiana, non c'è problema. Ok, avanti, Ale. C'è rimasto di altri, chiamato a mezzo di Natali, non ci dovrebbe essere. È Marco. Avanti, Natali, ci sei? Ciao Massimiliano. Ciao Natali, buonasera anche a te, dai. Ciao Massimiliano, ben sentito. Ciao.